Il terzo anello ad alta voce, per chi suona la campana, di Ernest Hemingway. Robert Jordan conosceva l'estasi purificante della battaglia e combatteva quell'estate e quell'autunno per tutti i poveri del mondo, contro ogni tirannia, per tutte le cose di cui uno credeva e per il nuovo mondo per il quale uno era stato educato. E il senso dell'estate e dell'autunno era profondamente sepolto sotto la stanchezza, la sonnolenza, il nervosismo, lo sconforto. Ma era pur sempre lì, e qualsiasi cosa capitava serviva soltanto a convalidarlo. In quei giorni uno aveva un profondo e sano e altruistico orgoglio che l'avrebbe reso un dannato seccatore al Gaylord. Kharkov non faceva nemmeno lui il cinico quando parlava di quei tempi. Erano giorni che tutti avevano vissuto, quando ogni cosa sembrava perduta e ogni uomo ne aveva riportato, meglio di ogni citazione o di ogni decorazione, l'idea di come avrebbe agito quando tutto sembrasse perduto. Il governo aveva abbandonato la città, portandosi via nella fuga tutte le automobili del Ministero della Guerra, e il vecchio Miaia era costretto ad andare a ispezionare le sue posizioni difensive in bicicletta. Robert Jordan non voleva crederci. Non riusciva a figurarsi Miaia in bicicletta neppure nelle sue più patriottiche immaginazioni, ma Kharkov diceva che era vero. Ma l'aveva scritto per i giornali russi e probabilmente voleva credere che fosse vero dopo averlo scritto. Ma c'era un'altra storia che Kharkov non aveva scritto. Egli aveva al Palace Hotel 3 russi feriti, di cui era responsabile. Erano 2 carristi e un aviatore, che erano troppo gravi per essere portati via. E poiché allora era della massima importanza che non ci fossero prove dell'intervento russo, per non giustificare un intervento aperto dei fascisti, toccava a Kharkov provvedere che questi feriti non cadessero nelle mani dei fascisti, nel caso che la città si dovesse abbandonare. In questo caso Kharkov avrebbe dovuto provvedere ad avvelenarli per distruggere così ogni prova della loro identità prima di lasciare il Palace Hotel. Robert Jordan aveva chiesto a Kharkov che sentimenti provava pensando alla necessità di compiere quell'atto, e Kharkov aveva detto che non ci aveva pensato. «Come l'avresti fatto?» gli aveva chiesto Robert Jordan, e aveva aggiunto: «Sai, non è una cosa semplice somministrare così all'improvviso del veleno alla gente». E Kharkov aveva detto: «Oh sì, è facile quando uno ne porta sempre con sé per suo uso personale». Quindi aveva aperto il portasigarette e aveva mostrato a Robert Jordan quel che conteneva in uno scomparto. «La prima cosa che chiunque farebbe dopo averti preso prigioniero sarebbe di portarti via il portasigarette», aveva obiettato Robert Jordan. «Ti farebbero alzare le braccia». «Ma ne ho un altro po' qui», aveva detto Kharkov con un ghigno, mostrando il risvolto della giacca. «Uno si mette il risvolto in bocca così, lo morde e inchiotte». «Così va molto meglio», aveva detto Robert Jordan. «Dimmi, odora di mandorle amare, come accade sempre nei romanzi polizieschi?» «Non lo so», disse Kharkov, assai divertito. «Non l'ho mai odorato. Dobbiamo romperne un tubetto e odorarlo? È meglio che lo conservi». «Sì», disse Kharkov, e ripose il portasigarette. «Non sono un disfattista, capisci, ma è sempre possibile che tornino tempi difficili. E non è possibile procurarsi di questa roba dovunque. Hai visto il comunicato dal fronte di Cordova? È molto bello, eh? Per adesso è il mio comunicato preferito». «Cosa dice?» Robert Jordan, che era venuto a Madrid dal fronte di Cordova, aveva provato quel subito irrigidimento che viene quando qualcuno scherza su una cosa su cui solo voi potete permettervi di scherzare, ma gli altri no. «Me lo dici?» «Nuestra gloriosa tropa siga avanzando sin perder ni una sola palma de terreno», disse Kharkov nel suo strano spagnolo. «Non diceva esattamente così», disse Robert Jordan, dubbioso. «Le nostre gloriose truppe continuano ad avanzare senza perdere un palmo di terreno», ripeté Kharkov in inglese. «È nel comunicato, te lo troverò». Uno ricordava gli uomini che aveva conosciuto e che erano morti intorno a Pozzo Blanco, ma al Gaylord ci si rideva sopra. Così era il Gaylord adesso. non è necessario che le cose ti debbano piacere, soltanto che tu le capisca, gli aveva detto Kharkov. Io ti insegno qualcosa ogni volta che ti vedo, e può darsi che tu finisca per istruirti. Sarebbe molto interessante per un professore, venire istruito. Che cosa hai letto di dialettica? Ho letto il manuale del marxismo, pubblicato da Emil Burns. Questo è tutto. Ma non ho tempo di leggere ora. Lo so, aveva detto Kharkov. Volevo dire, quando avrai tempo, ci sono molti libri che potrebbero farti capire alcune delle cose che stanno accadendo. Ma da tutto questo verrà fuori un libro che è molto necessario, che spiegherà molte cose che è necessario sapere. Spero di essere io a scriverlo. Non so chi potrebbe scriverlo meglio. Non mi adulare, aveva detto Kharkov. Sono un giornalista, ma come tutti i giornalisti desidero fare della letteratura. Proprio adesso sono molto occupato con uno studio su Carlo Sotelo. Era un buon fascista, un vero fascista spagnolo. Franco e quegli altri non lo sono. Ho studiato tutti gli scritti e i discorsi di Sotelo. Era molto intelligente, fu molto intelligente averlo ucciso. Ah, pensavo che tu non credessi all'assassinio politico. «È praticato molto largamente», disse Kharkov. «Molto, molto largamente. Ma noi non crediamo negli atti di terrorismo individuali», aveva detto Kharkov sorridendo. «Non crediamo naturalmente negli atti di terroristi criminali e di organizzazioni controrivoluzionarie. Detestiamo con orrore la doppiezza e la scellerataggine delle iene omicide». Nei relitti di Bukharin e di quelle fecce d'umanità come Zinoviev, Kamanev, Rykov e i loro seguaci, noi odiamo e disprezziamo questi veri demoni. E sorrise di nuovo. Ma credo egualmente che si possa dire che l'assassinio politico è praticato su larga scala. Intendi dire? Non intendo niente. Ma certamente noi giustiziamo e distruggiamo questi veri demoni e rifiuti d'umanità e quei cani traditori di generali e il rivoltante spettacolo di ammiragli infedeli al loro mandato. Costoro vengono distrutti, non vengono assassinati. Vedi la differenza? La vedo, aveva detto Robert Jordan. E il push del POUM? Il POM? Non è stato mai una cosa seria. Fu un'eresia di millantatore e di pazzi, e fu in realtà proprio una cosa infantile. C'era qualche persona onesta, fuorviata. C'era un solo cervello abbastanza buono e un po' di denaro fascista, non molto. Povero Pum, erano gente molto sciocca. Ma ne furono uccisi molti nel push? Non quanti ne furono fucilati dopo, o saranno fucilati. Il Pum è come il nome, una cosa non seria. Quelli avevano fatto un piano, come sai, per uccidere me, per uccidere Walter, per uccidere Modesto e per uccidere Prieto. Vedi che razza di mescolanza facevano? Noi non siamo affatto così. Povero Pum, non ammazzarono mai nessuno, né sul fronte né altrove. Qualcuno a Barcellona, sì. Ti trovavi lì? Sì. Ho mandato un cablogramma per descrivere la perfidia di quell'infame organizzazione di assassini trotskisti e le loro macchinazioni fasciste. Il tutto con grande disprezzo. Ma, detto tra noi, non è una cosa molto seria il PUM. Il loro unico uomo era Nin. L'avemmo in mano, ma ci scappò. Ma quelli erano in rapporto con i fascisti, non è vero? E chi non lo è? Beh, noi non lo siamo. Chissà. Io spero di no. Tu vai spesso dietro le loro linee, disse Kharkov con un ghigno. Il fratello di uno dei segretari dell'ambasciata repubblicana a Parigi ha fatto un viaggio a Saint-Jean-de-Luz la settimana scorsa per incontrare della gente di Burgos. Preferisco il fronte, aveva detto Robert Jordan. Più si è vicini al fronte e meglio è la gente. E ti piace startene dietro le linee fasciste? Moltissimo. Abbiamo della gente in gamba là. Ebbene, cerca di capire che anche loro debbono egualmente avere la loro gente in gamba dietro le nostre linee. Noi li troviamo e li fucidiamo, e loro trovano i nostri e li fucilano. Quando stai dietro le linee loro, devi sempre pensare a quante persone loro debbono aver mandato dalla parte nostra. Ci ho pensato. Ebbene, aveva detto Kharkov, ora hai probabilmente abbastanza da pensare per oggi, perciò bevi la birra che è rimasta nel boccale e vattene, perché io devo andare al piano di sopra a vedere gente. Gente del piano di sopra. Torna a trovarmi presto. «Cosa fai lì seduto?» gli domandò Maria. Era in piedi vicino a lui ed egli volse la testa e le sorrise. «Nulla», disse. «Pensavo». «A che cosa? Al ponte?» «No, a te e all'albergo a Madrid, dove conoscevo alcuni russi, e a un libro che scriverò un giorno». «Ci sono molti russi a Madrid?» «No, pochissimi. Ma i giornali fascisti dicono che sono centinaia di migliaia. Mentono, sono pochissimi». «Ti piacciono i russi?» continuò Robert Jordan. «Lo straniero che è stato qui era un russo. Ti piaceva?» «Sì. Allora ero malata, ma mi sembrò che fosse molto bello e molto coraggioso». «Che sciocchezza, bello», disse Pilar. «Aveva il naso schiacciato come la mia mano e gli zigomi larghi come le chiappe di una pecora». «Era un mio buon amico e compagno», disse Robert Jordan a Maria. «Gli volevo molto bene». «Certamente», disse Pilar. «Ma gli hai sparato». Quando disse questo, i giocatori di carte alzarono gli occhi dal tavolo e Pablo fissò Robert Jordan. Nessuno disse nulla e allora lo zingaro chiese: «È vero, Roberto?» «Sì», disse Robert Jordan. Avrebbe voluto che Pilar non tirasse fuori quella storia e avrebbe voluto non avergliela mai raccontata al sordo. «Me lo chiese lui, era gravemente ferito». «Senti», fece Andrés, uno dei fratelli, «tu sei un professore e tutto il resto. Credi che un uomo possa vedere in anticipo quello che gli capiterà?» «Credo di no», disse Robert Jordan. Pablo lo fissava con curiosità e Pilar lo stava osservando senza alcuna espressione sulla faccia. «Ma quell'uomo dallo strano nome vide il suo destino molto chiaramente», disse lo zingaro. «E la cosa è andata in quel modo». «Non vide il suo destino», precisò Robert Jordan. «Aveva paura di quell'eventualità e la paura si trasformò in ossessione. Nessuno verrà a dirmi che egli abbia visto qualcosa». «Neppure io?» gli chiese Pilar e raccolse della cenere dal fuoco e se la soffiò via dalla palma della mano. «Neppure io posso dirtelo?» «No, con tutte le stregonerie e le zingarescherie e il resto, neppure tu puoi dirmelo». «Perché tu sei un prodigio di sordità», disse Pilar, la grossa faccia ruvida e larga rischiarata dalla luce della candela. «Non è che tu sia stupido, sei semplicemente sordo, e uno che è sordo non può sentire la musica, né può sentire la radio, così, non avendole mai sentite, può dire che queste cose non esistono». «Che va, Inglese? Io ho visto la morte di quell'uomo dal nome strano sulla sua faccia, come se ci fosse stata marcata a fuoco». «Non vedesti la morte», insisté Robert Jordan. «Vedesti paura ed apprensione. La paura proveniva da quello che aveva passato, l'apprensione dalla triste eventualità che egli immaginava». «Che va», disse Pilar. «Io vidi la morte così chiaramente come se gli stesse seduta sulla spalla. E c'è di più, odorava di morte». «Odorava di morte», disse Robert Jordan con tono di beffa. «Di paura, forse. La paura ha un odore». Maria pose la mano sulla spalla di Robert Jordan e ve la tenne ed egli pensò a un tratto: «Finiamola con queste sciocchezze e godiamoci quel tanto di tempo che ci resta. Ma è ancora troppo presto, dobbiamo ammazzare questa parte della serata». E disse a Pablo: «E tu? Credi in queste stregonerie?» «Non lo so», rispose Pablo. «Sono piuttosto della tua opinione. Non mi è mai capitato niente di soprannaturale. Ho paura, sì, certamente, è molta. Ma credo che Pilar sappia divinare gli avvenimenti dalla mano. Se non mente, forse è vero che ha odorato quella cosa». Thank you. Ascoltatemi. Inglese, continuò Anselmo, io sono contro tutte queste stregonerie, ma questa Pilar ha la fama di saperla lunga su queste cose. Di che sa? Chiese Fernando. Che odore ha? Se c'è odore, deve essere un odore ben definito. Lo vuoi sapere, Fernandito? Disse Pilar sorridendogli. Credi che potresti sentirlo? Se davvero c'è, perché non dovrei sentirlo come un altro? Perché no? Pilar si stava burlando di lui, le grosse mani incrociate sulle ginocchia. Sei mai stato a bordo di una nave, Fernando? No, né vorrei andarci. Allora può darsi che tu non riesca a riconoscerlo, giacché per una parte è l'odore che viene su quando su una nave c'è una tempesta e i boccaporti sono chiusi. Metti il naso contro la maniglia di ottone di un boccaporto ben serrato su una nave rullante che ti oscilli sotto i piedi così forte che quasi svieni e hai un vuoto nello stomaco e avrai una parte di quell'odore. Sarebbe impossibile per me riconoscerlo, perché non salirò mai su una nave, disse Fernando. Sono stata parecchie volte sulle navi, disse Pilar, per andare al Messico e per andare nel Venezuela. Qual è l'altra parte? Chiese Robert Jordan. Pilar lo guardò con aria di burla, mentre ripensava orgogliosa ai suoi viaggi. Va bene, inglese, impara, fai bene, impara, sta a sentire dunque. Dopo l'esperimento della nave, devi scendere per la collina di Madrid verso il Puente de Toledo e andare la mattina presto al Matadero e rimanere lì sul lastrico umido quando c'è la nebbia dal Manzanares e aspettare le vecchie che ci vanno prima dell'alba a bere il sangue delle bestie macellate. Quando una di queste vecchie esce dal Matadero, avvolta nello scialle, con la faccia grigia, gli occhi incavati e i peli dell'età sul mento e sulle guance che le spuntano dalla faccia bianca di cera come cicci dal seme di un fagiolo, allora abbracciala stretta, inglese, e tienla contro di te, e baciala, baciala sulla bocca, e conoscerai la seconda parte di quell'odore. «Questo mi ha tolto l'appetito», disse lo zingaro. «La faccenda dei cicci è stata troppo». «Vuoi che continui?» domandò Pilar a Robert Jordan. «Certamente», egli disse. «Se è necessario che uno impari, impariamo». «Baciane una», disse Pilar. «Baciane una, inglese, per amor della scienza, e poi, con quell'odore nelle narici, torna in città, e quando vedi un recipiente delle immondizie con dei fiori morti, mettici il naso dentro e annusa, in modo che quel profumo si mischi con quelli che hai già nelle narici». «L'ho fatto», disse Robert Jordan. «Che fiori erano?» «Crisantemi». «Continua», disse Robert Jordan. «Ne sento l'odore». «Poi», proseguì Pilar, «è importante che sia un giorno d'autunno di pioggia, o almeno di nebbia, o anche di primo inverno, e dovresti continuare a camminare attraverso la città e giù per Calle de Salud, odorando quel che potrai odorare quando stanno facendo le pulizie nella Casas de Putas e stanno vuotando nelle fogne i secchi delle risciacquature, e con quell'odore di consumata fatica d'amore, mista dolcemente con acqua saponata e mozziconi di sigaretta che ti arriva appena alle narici, dovresti andare al giardino botanico, dove la notte le donne che non possono più lavorare nelle case fanno il loro lavoro contro i cancelli di ferro del parco, contro le ringhiere di ferro delle aiuole e sui marciapiedi, e lì, all'ombra degli alberi, contro le sbarre di ferro, quelle donne fanno tutto quello che un uomo desidera, dalle richieste più semplici per un compenso di 10 centesimi fino a una peseta per il grande atto per il quale siamo nati, e lì, su un'aiuola di fiori morti dove le piante non sono ancora divelte per essere sostituite e servono così a rendere più soffice la terra che è tanto più soffice del marciapiede, troverai un sacco di juta abbandonato con l'odore della terra umida, dei fiori morti e di ciò che è stato fatto nella notte. In quel sacco sarà contenuta l'essenza di tutte quelle cose, della terra morta e degli steli morti dei fiori, dei loro petali fradici e l'odore che è insieme la morte e la nascita dell'uomo. Ti avvolgerai il sacco intorno alla testa e cercherai di respirare attraverso la tela. «No!» «Sì?» disse Pilar. ti avvolgerai questo sacco intorno alla testa e cercherai di respirare. E allora, se non hai perduto nessuno dei precedenti odori, quando inalerai profondamente sentirai l'odore della morte che si avvicina, come lo conosciamo noi. Confesso che non capisco, cominciò Fernando. Non confessare e non cercar di capire, disse Pilar. Nevica ancora fuori? Robert Jordan andò all'imboccatura della caverna, sollevò la coperta e guardò fuori. La notte era limpida e fredda e non cadeva più neve. Guardò attraverso i tronchi degli alberi dove si stendeva il biancore e in alto, attraverso gli alberi dove il cielo adesso era limpido. L'aria che respirò gli scese nei polmoni fredda e pungente. E il sordo lascerà molte tracce, si è rubato i cavalli questa notte, pensò. Lasciò cadere la coperta e tornò indietro nella caverna fumosa. Il cielo è limpido, disse. La tempesta è passata. Omero Antonutti ha letto Per chi suona la campana di Ernest Hemingway, regia di Anna Antonelli, riduzione di Giovanni Piccioni, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.